Friuli nel mondo, 185esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vi dedichiamo oggi, cari amici radioascoltatori, un piccolo ma significativo scorcio melodico del Friuli. Freschezza e semplicità sono le tipiche caratteristiche di queste canzoni friulane moderne, le quali, senza allontanarsi dalla tradizione canora del Friuli e senza snaturarne lo spirito, sanno con sincerità inserirsi nella logica continuità evolutiva del canto nostrano. Con l'orchestra diretta da Franco Russo ascolterete Il notturno dell'emigrante di Donato con la voce di Nereo Apollonio, Vola canzone di Candotti nell'interpretazione di Sergio Tonello e T'ho vista pregare cantata ancora da Nereo Apollonio. Infine, con l'orchestra diretta da Alberto Casamassima e con la voce di Stefano Lopizzo, Laggiù sul mar di Politi Sebastianotto. Scende, le stelle brillano, la luna splende, tutto il mondo tace, tutto è silenzio, regna la pace. Solo il mio cuore ricorda e piange il mio lontano amore. Questo è notturno dell'emigrante che va ramingo solo nel mondo. Questo è notturno dell'emigrante che va ramingo. Vola canzone l'amore, portala quella fanciulla, il saluto di un cuore che attende, che spera che ama. Dille che in sogno la vede, che ogni ora la pensa di più. Bambina, sei bella come il sole e come una stella, tu splendi per me, per sempre sei musica divina, è un grande amore in fondo in questo cuore. Bambina, sei solamente tu che in sogno tu incanti questo thank you. sempre infinito. Il paradiso solamente eri tu. Tu vi sta pregando, io ho letto nel tuo cuore che il nostro immenso amore non finirà, non sei tu, laggiù sul mare c'è un canto d'onda, tra quell'onda io vedo te, Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pellizzari.